Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. È finita la giornata, mentre è iniziata la settimana, quindi questo, come molti sapranno, se no ve lo dico io, è il momento, l'appuntamento fisso di ogni sera qui a Radio 24 per avere un quadro esauriente di quelle che sono state le notizie principali della giornata e anche per ascoltare chiacchierate con ospiti in diretta. Parleremo di diversi argomenti, ritorneremo su questa storia drammatica e assurda del un altro ragazzo che si è ucciso perché gay. Parleremo anche di politica, vedremo di fare un'analisi, una panoramica su che contempli due protagonisti di questo momento, sono protagonisti sempre un po' tutti in politica, ma in particolare Grillo da una parte, infatti tutti i primi titoli anche sui quotidiani online sono dedicati a lui, e dall'altra Renzi, che ha chiuso la sua Leopolda, e vediamo anche con quali risultati, almeno da un punto di vista di una politologa che sentiremo più tardi. Ma intanto, come qualcuno saprà di consuetudine, iniziamo con i titoli dei fatti principali. Quindi c'è stato l'incontro di Grillo con i parlamentari 5 Stelle e il Senato ha fatto praticamente uno show. Il comico politico annuncia che vuole andare subito al voto, definisce Napolitano un vecchietto che crea problemi e Letta replica: è un attacco assurdo al capo dello Stato. E sempre per quanto riguarda la politica, nel voto in Trentino scompaiono centrodestra e Movimento 5 Stelle. Ed è sempre ovviamente in primissimo piano, visto che sta facendo il suo iter parlamentare, la legge di stabilità. Il cuneo fiscale, dice il governo, ma decida il Parlamento. Il governo apre, i sindacati in un primo momento sembrano pronti al dialogo, così titolavano prima i giornali, i siti, però Bonanni della CISL dice: se cambiano le scelte niente sciopero. Camusso della CGIL invece dice: lo sciopero serve per mettere pressione. Angeletti della UIL dice: questa legge di stabilità è inadeguata, si fa finta di ridurre le tasse. Bisogna parlare anche di maltempo, perché la tempesta di San Giuda fa 5 morti nel nord Europa e punta verso la Germania. Domani dovrebbe arrivare anche una coda, una scia di questo maltempo in Italia. Il Datagate: il presidente Barack Obama dice di avere piena fiducia nell'operato dei vertici della National Security Agency, però nello stesso tempo viene detto dalla Casa Bianca che c'è in atto una revisione delle procedure per la raccolta delle informazioni da parte dell'intelligence americana, che sarà pronta entro fine anno. E poi il calcio, periodo no per Balotelli, tampona un'auto tornando a casa dai genitori, illeso lui e il conducente dell'altra macchina. E cominciamo ad approfondire allora queste notizie, partendo ovviamente dalla politica italiana, a cominciare dalla visita a sorpresa di Beppe Grillo in Senato e suoi. Beppe Grillo che non si è certo risparmiato e ne ha avute un po' per tutti. Arriva in giacca e cravatta, ma i toni sono sempre quelli del guerrigliero. Beppe Grillo sbarca in Senato per incontrare i parlamentari 5 Stelle, ma anche per annunciare che chiederà l'impeachment per Giorgio Napolitano, ovvero la messa in stato d'accusa del capo dello Stato per attentato alla Costituzione. Così il leader del movimento. Napolitano chiederemo l'impeachment perché è una persona che non rappresenta più, secondo noi, il popolo italiano. Insomma, è un presidente di parte e prendere delle decisioni così, no? C'è anche sconveniente dal punto di vista umano, perché in fondo noi rappresentiamo 9 milioni di persone che ci hanno mandato qua. La critica è sull'incontro al Quirinale per la riforma della legge elettorale. Non è uno sgarbo, spiega Grillo, ma con i giochi fatti era inutile andare. L'impeachment non passerà perché Napolitano è furbo. Immediata arriva la risposta del premier Enrico Letta. L'attacco di Grillo a Napolitano va respinto. L'attacco di Grillo a Napolitano va respinto con fermezza. L'impeachment assurdo. Grillo vuole solo l'instabilità. Ma l'ex comico replica: Letta non è credibile, è il nipote di suo zio. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E rimanendo sempre sulla politica, intanto parrebbe tornata la pace in casa del PDL o ex PDL, Forza Italia, come si deve chiamare, almeno stando al passo indietro che avrebbe fatto Angelino Alfano. Non è partita una raccolta di firme in vista del Consiglio nazionale, ma so bene quale sarebbe la prima frase di qualunque documento io dovessi trovarmi a sottoscrivere, perché sarebbe il riconoscimento della leadership di Silvio Berlusconi. Indubbio non è questo, e l'oggetto del dibattito non è neanche il nome di Forza Italia, che richiama anni bellissimi. Ci sono altre questioni di cui noi crediamo si debba discutere al Consiglio nazionale e le porremo all'attenzione dell'opinione pubblica, oltre che del nostro movimento politico, nei prossimi giorni. Quindi avete sentito la disponibilità e l'effettivo passo indietro di Angelino Alfano. Chi invece per il momento almeno dice no è Marina Berlusconi. Dice: non ho mai avuto e non ho alcuna intenzione di impegnarmi in politica. Lo scrive in una nota alla figlia del Cavaliere, su cui ancora una volta si rincorrono le voci su una sua possibile successione al padre. E oggi ci sono stati anche dei risultati elettorali che riguardano il Trentino Alto Adige. Nella provincia autonoma di Trento si è stato il successo del candidato Ugo Rossi, sostenuto dal PD ma esponente del partito Trentino Tirolese. E il voto segna invece la sostanziale scomparsa dal panorama politico di Trento del centrodestra. Il Movimento 5 Stelle non riesce a ripetere il risultato delle politiche e a Bolzano risultati delle urne un po' come da previsione, cioè la Sud Tirol e Volkspartei primo partito, seppure un po' in calo. E poi è sempre in primissimo piano, dicevamo anche nei titoli, la legge di stabilità. Si parla di cuneo fiscale, decida il Parlamento. Il governo Letta in questo modo sembra fare un passo indietro. Tassazione sugli immobili e taglio del cuneo fiscale. Questi temi di maggior dibattito della legge di stabilità che muove i primi passi al Senato. Sull'IMU resta non solo l'incognita della seconda rata sulle prime case, ma anche il peso che avrà sulle tasche degli italiani la nuova tassa che integrerà rifiuti e servizi indivisibili. La service tax costa troppo, va cambiata, usciamo dal governo, fa capire dal PDL Brunetta. I numeri di Brunetta non sono esatti, replica il sottosegretario all'economia Baretta. Contro l'IMU intanto i costruttori, così Buzzetti dell'ANCE. Prima cosa, bisogna assolutamente rimettere a posto questa vicenda della casa, sulla quale, per quel che ne abbiamo capito, non possiamo essere d'accordo. Comunque c'è anche il tema specifico dell'IMU sull'invenduto. Altro capitolo, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori. I soldi messi dal governo non sono sufficienti, ribadiscono i sindacati che puntano il dito anche su pensioni e pubblico impiego. Se il Parlamento cambia la legge di stabilità, smontiamo lo sciopero, annuncia però Bonanni CISL. Alle perplessità di CGL CISL UIL replica intanto Palazzo Chigi. Spetta al Parlamento, dice il governo, definire la platea dei destinatari dell'intervento del cuneo fiscale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Mentre continuo a raccontarvi questa ricostruzione della giornata, vedo purtroppo un'agenzia di questi istanti, l'ennesimo femminicidio. Non ci sono frontiere tra cittadini italiani o stranieri, uomini, in questo intendo. Omicidio alle porte di Roma c'è stato. Nel comune di Cerveteri un romeno di circa 30 anni ha ucciso a coltellate la moglie, sua connazionale, romena anche lei. L'episodio è accaduto in un fondo agricolo, il corpo della donna è stato trovato fuori dalla roulotte dove i due vivevano. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno arrestato l'uomo. Dicevamo anche il maltempo che avanza verso la Germania con la tempesta di San Giuda che ha fatto vittime già nel nord Europa, e domani le ultime piogge, cioè l'ultima scia di quest'ondata, arriverà anche sull'Italia. The storm was brief but powerful and intense. Hundreds of trees brought down across southern England with at times tragic consequences. 3 vittime nel Regno Unito, 2 in Olanda, oltre a 2 dispersi, 1 in Francia e 1 in Gran Bretagna. Caos nei trasporti e 650.000 case senza elettricità. È il bilancio provvisorio in Inghilterra del Sud e Francia settentrionale, dove si sta abbattendo una delle peggiori tempeste degli ultimi anni, ribattezzata dal nome del santo che si celebra il 28 ottobre. Ma la tempesta si sta progressivamente estendendo anche all'Olanda, dove si segnalano 2 vittime. L'aeroporto londinese di Heathrow ha cancellato circa 130 voli, ma si prevedono anche interruzioni nei trasporti ferroviari, oltre che ponti e strade chiuse. Chiuse anche i porti nella Manica e almeno 270.000 sono le case rimaste senza luce elettrica in Inghilterra, mentre in Francia, dove sono in allerta 7 dipartimenti, 75.000 abitazioni sono rimaste al buio. Allarme anche sulle coste di Svezia e Danimarca. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E stiamo ancora sulle notizie dall'estero, con sempre in primo piano il Datagate, lo scandalo delle intercettazioni americane. Gli Stati Uniti non stanno sorvegliando la cancelliera Merkel, lo ha ribadito il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, ma gli Stati Uniti corrono però ai ripari per l'ira degli alleati europei, appunto per questo scandalo. There has been extraordinary change, technological change, in the last... Stiamo rivedendo, questo hanno detto oggi della Casa Bianca, le attività di intelligence cambieranno entro un anno, così ha detto in serata il portavoce della Casa Bianca, ribadendo che comunque ogni programma è volto a combattere il terrorismo. E c'è una nuova strage di migranti, almeno 35 nigeriani hanno perso la vita per la sete nel deserto tra Niger e Algeria. A raccontare questa drammatica traversata sono stati 19 superstiti, il camion su cui viaggiavano si è bloccato nel deserto. E ritorniamo sulle notizie italiane con 6 condanne e un'assoluzione che ci sono state al processo d'appello per il crollo. Vi ricordate il liceo Darwin di Rivoli nel Torinese, in cui nel novembre del 2008 perse la vita lo studente Vito Scafidi? In primo grado era stato condannato soltanto uno dei 7 imputati in questo processo. Le pene inflitte vanno da un minimo di 2 anni e 2 mesi a un massimo di 4 anni. Condannati 3 funzionari della provincia e 3 insegnanti responsabili della sicurezza della scuola. Giustizia è fatta, così ha detto la mamma di Vito, Cinzia Caggiano. Sentiamola al microfono di Maria Piera Ceci. Noi abbiamo seguito il nostro cuore fin dall'inizio e sapevamo che Vito nel primo grado non aveva avuto giustizia. Quindi ci siamo mossi, abbiamo fatto ricerche, abbiamo cercato un ingegnere fuori dalla provincia di Torino che ci facesse da perito, e tutte le persone che abbiamo incontrato e che ci hanno dato una mano affinché ribaltasse il secondo grado sono persone che ci ha mandato Vito. Oggi posso dire che Vito ha avuto giustizia e che si è messo un punto fermo sull'edilizia scolastica. Chi ha nelle mani i nostri figli, che deve garantire la sicurezza nelle scuole, da oggi farà bene il suo lavoro, non starà dietro una scrivania, ma controllerà. Vede, da quello che è uscito fuori sia dal primo grado che dal secondo grado è che questi funzionari che vanno a controllare le scuole non controllano, vanno al bar, si prendono un caffè con la preside e chiedono cos'è che non va nella scuola, quindi può essere il rubinetto che perde, può essere la finestra che non si chiude, questo è quello che loro controllano, nulla. Comunque oggi giustizia è fatta. Oggi sì, oggi Vito ha vinto, di sicuro era lì con noi e posso dire che oggi mio figlio ha avuto giustizia e che la sua tragedia non è stata invana, serve di sicuro agli studenti di oggi e di domani per mettere in sicurezza le scuole. È un'altra tragica vicenda, crescono le adesioni al sit-in del 30 ottobre, tra 2 giorni a Roma, in ricordo del ragazzo romano che si è tolto la vita ieri perché è omosessuale. Ci sarà anche un rappresentante del governo, cioè la vice ministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, e al microfono di Simone Spezia ha parlato il sindaco di Roma Ignazio Marino. Un problema che può apparire piccolo, ma tale non è, in una cittadina di 15.000 abitanti, in una metropoli di 4 milioni diventa ancora più grande. Il nostro paese è drammaticamente indietro, Roma farà la sua parte. Diciamo una proposta condivisa per quanto riguarda il tema del registro delle unioni civili, come sappiamo questo non risolve, ma è un segnale che la capitale in maniera non solo simbolica ma pratica vuole dare al paese. E di questo poi parleremo con Paola Concia e un altro ospite, ma parliamo anche della nuova udienza al processo per il naufragio della Concordia, ci sono nuove accuse. Abbiamo urtato uno scoglio, marocaggio combinato, diceva la sera del 13 gennaio 2012 il comandante Schettino. Ed è con questo audio fatto ascoltare in aula che si è aperto a Grosseto una nuova udienza del processo. Primo test dell'accusa allo stagista Salvatore Ursino, all'epoca ufficiale in addestramento. Il comandante Schettino, rivela Ursino, ordinò di aumentare la velocità della Concordia da 15 a 16 nodi, circa 5 minuti prima dell'impatto con gli scogli. Ursino ricorda poi che il timoniere sbagliò 2 volte eseguire gli ordini del comandante, che però non intervenne, ma la testimonianza segna anche un punto a favore della difesa quando Ursino ricostruisce la fase dell'abbandono della nave da parte sua e da parte di Schettino. Lo sbandamento era tanto che il ponte 4 era sceso proprio a livello con l'acqua e aveva bloccato queste entrambe le 2 imbarcazioni, dove all'interno c'era gente. Insomma, secondo l'ufficiale, Schettino sarebbe stato costretto a finire nella scialuppa di salvataggio, ma per l'avvocato di Stato Patrizia Pinna il test su questo punto si sarebbe contraddetto rispetto a precedenti dichiarazioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E passiamo ai problemi dell'occupazione. L'Alcoa, si intravede uno spiraglio per i 500 lavoratori dello stabilimento sardo di Porto Vesne. Dopo un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, l'azienda sembra pronta a ritirare la mobilità e riprendere il confronto per la vendita all'americana Clash, mentre la finanziaria regionale sarda farà da garante. Anche se vedo proprio un dispaccio di agenzia di questi istanti, dove si legge tensione davanti al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, dove oggi hanno protestato appunto gli operai dello stabilimento sardo dell'Alcoa, al termine del tavolo tra governo e sindacati una ventina di manifestanti ha lanciato grossi petardi contro la polizia. Un funzionario e un agente sono rimasti lievemente feriti e sono stati medicati sul posto. Direi di chiudere con il calcio. Tocca questa volta alla Juventus. La Juventus è stata punita con una partita da giocare con il settore Curva Sud chiuso al pubblico per i cori antinapoletani scanditi dai tifosi bianconeri durante la partita con il Genoa. Essendo questa la prima violazione, il giudice sportivo ha sospeso l'esecuzione della sanzione per un anno con la condizionale. E non finisce il momento nero di Mario Balotelli. L'attaccante del Milan è stato protagonista nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale nei pressi di Brescia mentre si recava dalla famiglia. È comunque rimasto illeso, come anche il conducente dell'altra auto che il calciatore aveva tamponato. Bene, la giornata è, mi pare, piuttosto ricostruita. Adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo con gli ospiti tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora il filo delle notizie, adesso con gli ospiti in diretta. Dai giornalisti di carta stampata. C'è Piazza Pulita sulla 7, poco fa parlava la Santanchè della possibile successione a Berlusconi. Sapete che si fa appunto il nome di Marina Berlusconi, che però ha smentito. Sta parlando con una renziana doc adesso. Che anche Renzi potrebbe essere un successore, non del partito stesso direttamente di Berlusconi, ma diciamo come leader nazionale. Mi sembra un po' triste, sinceramente, che i giornali più importanti. Maria Elena Boschi. A guardare alle scarpe che indossano le donne. Fastidio anche il nome pitonessa per la Santa Chè. Credo che sia un po' sessista come atteggiamento, sinceramente, perché se fossimo uomini non si soffermerebbero sulle scarpe o su questi nomignoli. Però, insomma, mi sembra una cosa che si possa archiviare rapidamente. Perché poi? Ma era tutto legato a un paio di scarpe che ho indossato la prima sera. Ecco, lei la giaguara del PD, senza che la pitonessa, giustamente, dicono le donne dei partiti in modo trasversale, smettiamolo con questi commenti sui dettagli. Vi ricordo i titoli e poi ci colleghiamo tra poco con Raffaella Calandra. Quindi dicevamo di Grillo, del suo show oggi al Senato, dove ha incontrato i parlamentari 5 Stelle, annuncia che vuole andare subito al voto, definisce Napolitano un vecchietto che crea problemi, Letta replica: questo è un attacco assurdo al capo dello Stato. Legge di stabilità, il cuneo fiscale, dice il governo, decide il Parlamento, i sindacati però sono pronti al dialogo ma con delle precisazioni. Bonanni della CISL dice: se cambiano le scelte, niente sciopero. La Camusso della CGIL invece dice: lo sciopero serve per mettere pressione. Angeletti della UIL dice che la legge di stabilità è inadeguata e se soprattutto fa finta di ridurre le tasse. Il maltempo, la tempesta di San Giuda fa 5 morti nel nord Europa e punta verso la Germania. Domani arriva anche una coda di questo maltempo in Italia. Per il Datagate il presidente Barack Obama dice di avere piena fiducia nell'operato dei vertici dell'agenzia di sicurezza americana, ma nello stesso tempo la Casa Bianca fa sapere che la revisione delle procedure per la raccolta delle informazioni da parte dell'intelligence sarà pronta entro fine anno. Calcio, periodo no per Balotelli, tampona un'auto tornando a casa dai genitori, illeso lui e il conducente dell'altra macchina. Saluto adesso la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Che è a Busto Arsizio, a Malpensa Fiere, perché c'è un incontro tra piccoli imprenditori, per lo più lombardi, no, che incontrano il ministro dell'economia Zanonato, perché tentati questi imprenditori dal trasferirsi con le loro attività in Svizzera. Perché, Raffaella? Sì, questo è proprio il titolo di questo incontro. Meglio in Svizzera, una domanda che è una tentazione, questa è la domanda giusta. Perché? Perché in Italia c'è troppa burocrazia, perché in Italia c'è un costo del lavoro eccessivo, perché in Italia, dicono, non si riesce a sopravvivere. In questo momento ci sono almeno 1200 piccoli imprenditori qui nella Malpensa Fiera di Busto Arsizio, la sala è gremita e proprio pochi istanti fa è arrivato il ministro Zanonato. Parlando con questi imprenditori hanno tutti storie molto simili, storie di guadagni che si sono negli ultimi tempi progressivamente contratti, storie di dipendenti che non si vorrebbe lasciare a casa ma che purtroppo la crisi costringe in qualche modo, in alcuni casi, a lasciare a casa, storie di una distanza del paese, dello Stato, dalle richieste di chi diciamo produce economia e produce ricchezza. ricchezza. Ci sentiamo trattati come evasori fiscali, ci hanno raccontato diversi di questi imprenditori, ma non lo siamo, e quindi la tentazione di questi imprenditori è quella di fare un passo, di andare nella vicina Svizzera, sono pochi chilometri da qui, che invece li sta corteggiando. Tutto era partito proprio da una iniziativa da parte delle autorità elvetiche, che in qualche modo hanno messo sul piatto quelle che sarebbero le ragioni per cui andare in Svizzera sarebbe allettante per questi imprenditori, ed è in corso un'operazione, diciamo, quasi di contagio tra molti piccoli imprenditori, piccoli medi imprenditori di questa che è una delle zone, ricordiamolo, a più grande densità di produzione economica italiana. La Lombardia. Esatto, la Lombardia, ma questa zona in particolare, dove ci sono anche tante imprese di qualità, perché stiamo parlando anche di imprese di elettromeccanica, imprese di un artigianato che ha rappresentato sempre storicamente un po' il marchio del Made in Italy, cioè quello di una qualità particolare, che in questo momento stanno seriamente pensando di trasferirsi in Svizzera. Qualcuno l'ha già fatto, altri, diciamo, sono tentati dal farlo, ma vorrebbero trovare motivazioni per restare in Italia. E vedremo se il ministro Zanonato gli darà queste motivazioni. Esatto, ed è quelle sono le spiegazioni, le richieste che presenteranno al ministro. Poco fa, parlandoci, il ministro si è detto ottimista del fatto che la situazione in Italia possa migliorare, ha ribadito che prevede una crescita dell'1% per il 2014 e prevede che anche la possibilità che possa essere ulteriormente abbassato un po' il cuneo fiscale, un tema tanto caro agli imprenditori, per l'anno successivo, se si riuscirà anche a tagliare la spesa pubblica. Questa è un po' la condizione che ha posto il ministro, che però ha voluto dare un messaggio di rassicurazione. Quello che invece è il timore degli artigiani, in particolar modo di Confartigianato, che qui ha organizzato questo incontro, è che i valichi verso la Svizzera diventino, mi ha detto il presidente, come il canale di Sicilia verso Lampedusa, cioè strade di trasferimento verso di chi cerca una vita, in questo caso, migliore per la propria impresa. Diciamo con meno drammaticità. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Grazie a te Roberta. Ciao. Adesso, come vi dicevo all'inizio, vorrei ritornare sulla vicenda di questo ragazzo, il terzo nell'arco di un anno, almeno per quanto riguarda Roma, il terzo caso, questo ragazzo 21enne che si è suicidato a Roma buttandosi dall'11° piano perché è omosessuale. Dice: l'Italia sì, è un paese libero, però c'è ancora tanta intolleranza, c'è ancora l'omofobia. Poco fa ho sentito Paola Concia, l'onorevole Paola Concia, ex parlamentare del PD, lesbica dichiarata da tanti anni, l'ho sentito. Non ho potuto sentirla in diretta perché stava prendendo un aereo, però le ho chiesto, appunto, lo sentiremo, se effettivamente c'è un caso Roma, se c'è differenza tra nord e sud, e che cosa sarebbe meglio, quali iniziative sarebbe meglio muovere per cercare di convincere questi ragazzi che possono tranquillamente andare avanti superando qualche difficoltà che effettivamente c'è, ma insomma senza arrivare a queste estreme conseguenze. Secondo te, Paola, si può dire che ci sia un caso Roma, nel senso che sembra che tutto per lo più succeda soprattutto lì quando si parla di ragazzi che si suicidano, oppure magari in altre città, per esempio al sud, si suicidano ma non dicono qual è il motivo? Secondo te c'è questo caso? Può darsi. Io penso Roma, sicuramente da questo punto di vista, la Roma città aperta in questi anni è sicuramente stata mancante, cioè Roma è una città che è molto peggiorata negli ultimi anni. La gestione Alemanno è stata una gestione che ha sicuramente riacceso, cioè a Roma l'intolleranza è stata più forte in questi anni, un brutto clima sicuramente c'è stato. Naturalmente adesso bisogna reinventare la rotta, ma ci vorrà del tempo. Sicuramente è una città molto incattivita Roma, sicuramente un clima molto diverso dal passato, insomma, anche perché Alemanno non ha lavorato affatto su questo, cioè nel costruire un clima favorevole, diciamo, no? Infatti è aumentata l'omofobia, l'intolleranza verso gli immigrati, le sparatorie, insomma è una città in cui è incattivita proprio, mi sembra mi sembra la parola migliore per descrivere tutte queste cose, capito? Ma dalla tua esperienza anche politica, ma anche personale, eccetera, puoi dire tu, Paola Concia, che ci sia differenza tra nord e sud? Per esempio, le unioni civili, no? I registri delle unioni civili sono soprattutto nel centro nord, e non so se ce ne sono molti. No, guarda, in questo momento, tra l'altro, sono alla riunione nazionale a Torino della rete Redi, che è la rete di tutte le amministrazioni locali, comuni, province e regioni che hanno gli assessorati e uffici che si occupano di lotta alle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, e c'è gente da tutta Italia. Purtroppo, diciamo, l'intolleranza, l'omofobia, la transfobia è equamente distribuita su tutto il territorio nazionale. Io ho girato l'Italia in lungo e in largo, ti posso dire che c'è un profondo nord come un profondo sud, e invece c'è un nord aperto e rispettoso delle differenze, come un sud aperto e rispettoso delle differenze. Insomma, diciamo che l'Italia è un po', non esiste questa differenza tra nord e sud, assolutamente. Ah, ritieni che non ci sia? Senti, ma secondo te, Paola, diciamolo una volta per tutte, questi ragazzi, anche le ragazze, possono fare politica per strada, in piazza, ma nel senso di darsi la mano, qualche volta di scambiarsi un bacio, sia le ragazze che i ragazzi, cioè il fatto di rendere più naturale agli occhi degli altri, di essere anche loro più disinvolti, più disinvolte, può piano piano aprire un po' un varco, rendere davvero le città più aperte, visto che Roma città aperta non lo è più, invece di chiudersi nel privato, di crogiolarsi nel proprio senso di vergogna assurdo, potrebbe essere questo o si espongono di più? Dunque, intanto, diciamo, per due persone che si amano, che siano eterosessuali o omosessuali, il tenersi la mano o darsi un bacio non è politica, diciamo, è un'espressione dei sentimenti. Certo, ma per quanto riguarda le coppie dello stesso sesso diventa attivismo. Diciamo, ecco, attivismo. Appunto, questo vale per tutti. Tu dici, il fatto di vivere alla luce del sole può essere una cosa che aiuta. Questo che aiuta anche gli altri. Certo, vivere il più possibile. Infatti io invito tutti a non avere paura e vivere alla luce del sole la loro omosessualità. È evidente, ho capito la tua domanda, no? Diciamo che siccome la critica, che è una cosa irritante, veramente assurda, è quando ti dicono a noi omosessuali, ci dicono non dovete ostentare la vostra omosessualità. Una cosa talmente idiota, se posso dire. L'eterosessualità viene ostentata tutti i giorni, che non è ostentazione, no? È vivere normalmente, quotidianamente, essere vivi. Si ama una persona, si vuole bene a una persona, ci piace a una persona, e se ci stiamo insieme ci viene naturale, come viene naturale a tutte le persone eterosessuali abbracciarla, accarezzarla, dimostrare affetto in quel momento quando ci passa per la testa e quando ci abbiamo desiderio. E questo significa vivere normalmente. Il coming out, questo tanto vituperato coming out, non è altro che vivere alla luce del sole i propri sentimenti. Non è un esercizio intellettuale, non so come dire, però è una cosa normale, può aiutare, una cosa che dovrebbe essere normale. Può aiutare, certo, magari i ragazzi, soprattutto le donne, sai, così per i pregiudizi culturali, se si danno la mano possono essere delle amiche, eccetera, si nascondono di più. Forse per i maschi può essere più complicato, rischiano delle aggressioni. Certo, come possiamo conciliare due ragazzine che stanno mano per la mano, due adolescenti, diciamo, è più naturale, questo è vero. Poi però quando sono adulte no? E due donne però diciamo passano un po', diciamo, più che si tollera fino a 17 anni poi dopo. Quando si è maggiorenne. Però tu, per chiudere, la consigli questa cosa di cominciare a sforzarsi di essere più naturali, più disinvolti, più tranquilli in mezzo alla gente? Ma certo, ma io invito tutti i ragazzi e le ragazze a vivere alla luce del sole, a non avere paura, a parlare con i loro genitori, a parlarne a scuola, e naturalmente il mondo degli adulti, che deve essere accogliente, che deve essere all'altezza di questo. E siamo noi adulti che dobbiamo essere all'altezza di tutto ciò. I ragazzi, io non posso pensare, diciamo, è la mia grande battaglia, quella che un ragazzo o una ragazza adolescente non viva quello che io ho vissuto 30 anni fa, no? Perché io trovo assurdo che un ragazzo o una ragazza omosessuale non solo arrivi a suicidarsi perché ama una persona del suo stesso sesso, perché evidentemente questo ragazzo aveva paura di vivere il suo amore, perché di questo si tratta, ma non posso pensare che non debbano avere le stesse opportunità e gli stessi diritti umani basilari, cioè quelli di crescere serenamente almeno e vivere il proprio orientamento sessuale come tutti gli altri, cioè credo che sia una cosa di grandissima ingiustizia questa, e sarebbe una cosa veramente che ti rovina la vita, una conquista di civiltà che sarebbe di una banalità in realtà. Paola Concia, io ti saluto, so che devi prendere l'aereo, ti ringrazio, grazie, un abbraccio, un a abbraccio voi. A te, ciao, ciao Paola, ciao. E Paola starà volando adesso, intanto vedo i vostri commenti sulla pagina Effetto Notte su Facebook, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, potete continuare a commentare, secondo voi quali potrebbero essere le iniziative più efficaci per fare in modo che non ci siano altre persone, altri ragazzi o ragazze che si suicidano per questo, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, e poi riprenderemo un po' questo argomento quando rientriamo dalla pubblicità e poi ci saranno anche altri ospiti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, stiamo approfondendo alcuni argomenti dopo aver ricostruito la giornata, in particolare adesso eravamo sul ragazzo 21enne che si è suicidato a Roma perché è omosessuale, il terzo caso dall'inizio dell'anno. Però prima vi ricordo i titoli, poi riprendiamo l'argomento. Abbiamo parlato dello show di Grillo in Parlamento, nel senso che è arrivato a sorpresa al Senato, ha incontrato i suoi del Movimento 5 Stelle, annuncia che vuole andare subito al voto, definisce Napolitano un vecchietto che crea problemi e Letta subito replica che è un attacco assurdo questo al capo dello Stato. Legge di stabilità sul cuneo fiscale, il governo dice decida il Parlamento, apre al dialogo con i sindacati però non sono tutti così disponibili, nel senso Bonanni della CISL dice se cambiano le scelte non ci sarà lo sciopero, la leader della CGIL invece Camusso dice sulla legge di stabilità non ci sono segni di cambiamento di direzione, quindi lo sciopero può mettere pressione. Per Angeletti la legge di stabilità è inadeguata, si fa finta di ridurre le tasse. Maltempo con la tempesta di San Giuda che fa 5 morti nel nord Europa e punta verso la Germania e domani ci sarà anche una coda di questa ondata in Italia. Sul Datagate Barack Obama dice avere piena fiducia nell'operato dei vertici dell'organismo che ha operato queste intercettazioni in tutto il mondo, ma nello stesso tempo la Casa Bianca fa sapere che è in atto una revisione delle procedure per la raccolta delle informazioni. Calcio periodo no per Balotelli, tampona un'auto tornando a casa dei genitori, illeso lui e il conducente dell'altra macchina. Saluto Vittorio Lingiardi, pardon. Buonasera. Buonasera Vittorio Lingiardi, che ho strappato la sua cena, docente di psicologia dinamica e clinica della Sapienza di Roma, consulente scientifico delle cose che cambiano. Allora, parlavo prima con Paola Concia per chiedere appunto se c'è la differenza tra nord e sud, se c'è un caso Roma, e soprattutto le dicevo, può essere che i ragazzi, se invitati sempre di più a vivere con disinvoltura, per quanto possa essere difficile per molti la loro condizione, tenendosi per mano anche in pubblico, essendo sciolti, essendo disinvolti, forse in questo modo fanno già dell'attivismo, già della politica un po' anche diciamo originale e cominciano a creare una specie di battistrada, di varco, no, nei pregiudizi. Allora, intanto dalla pagina di Effetto Notte vedo alcuni commenti su quali potrebbero essere dei provvedimenti da prendere. Marco scrive: tanto buonsenso e lavoro sulle famiglie affinché cambi la cultura e aumenti il rispetto per gli altri. Rita scrive: gli insegnanti sono subito dietro alla propria famiglia, quindi c'è più importante la famiglia. Per Sergio la scuola è nient'altro che la scuola, è l'unica salvezza e lo sono i suoi insegnanti. Rita, penso e credo che l'accettazione da parte dei propri genitori sia fondamentale per noi figli, il loro sostegno, lo dico perché mia mamma dice ci ha impiegato quasi tutta la vita per sostenermi. Dice Rita, per Mirtilla ci devono essere diritti uguali per tutti, senza se e senza ma, e ci sono molti altri commenti, anche un'iniziativa di cui parla Valentina, se volete andare sulla pagina di Effetto Notte. Vittorio Lingiardi, io so che lei coordina un progetto che in realtà ha una portata internazionale che si chiama Le cose cambiano, in cosa consiste? Le cose cambiano è un progetto della casa editrice ISBN con il sostegno di Corriere della Sera e Nel Cuore, è un modo di trasmettere attraverso testimonianze raccolte online sul sito Le cose cambiano che qualunque adolescenza presenta difficoltà e che forse l'adolescenza di chi si scopre gay o lesbica presenta alcune difficoltà in più, quelle di vivere in un paese, spesso in un contesto scolastico e familiare, dove l'omosessualità assurdamente è ancora considerata una condizione di inferiorità, di disagio, di minorità, insomma un modo, per dirla con le parole di un mio paziente, di non avere le carte in regola. Noi vogliamo invece aiutare chi è giovane e che ha la vita davanti a sé a capire che il valore principale è essere se stessi, la propria autenticità. Siamo sostenuti dal fatto che da ormai decenni e decenni l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato, sulla base di super evidenze scientifiche, che l'omosessualità non è una malattia, non c'è niente da curare, e quindi ci auguriamo che episodi come quelli accaduti a Roma, siano sempre più rari, non succedano più. Purtroppo è vero che il tasso di rischio suicidario e anche di pensiero di suicidarsi negli adolescenti che si scoprono gay o lesbiche è superiore anche di 3-4 volte rispetto alla media dei coetanei eterosessuali. E questa è una piaga sociale ed è una calamità emotiva che va assolutamente arginata. Però Vittorio Lingiardi, vogliamo chiarire a questi ragazzi, alle famiglie, alle persone che ascoltano, che il problema non è dentro questi ragazzi ma è fuori, che i ragazzi sappiano che non è un problema, perché c'è una società ancora per certi versi ostile, non tutti, le cose sono cambiate anche in Italia, a proposito del titolo del suo progetto Le cose cambiano, devono convincersi, perché così è, che è un problema che viene dall'esterno e l'esterno va educato un po' per volta. Assolutamente, la società è da educare. E il ruolo che potrebbe svolgere una legge è molto importante. D'altro canto dobbiamo fare i conti con il fatto che per secoli e secoli si è guardato all'omosessualità come a un problema, mentre il problema è sempre stato l'omofobia. Le faccio un esempio. È come se, anziché pensare che il problema fosse l'antisemitismo o il razzismo, si fosse per sempre pensato che il problema erano gli ebrei o i neri. E invece bisogna ribaltare la convinzione e cercare di capire che cosa c'è che non va nelle persone omofobe. È vero che l'omofobia ha un potere di contaminazione psicologica così profondo che dalla società si infiltra anche all'interno della psicologia delle persone omosessuali stesse, e questo porta a non accettarsi, a cercare terapie che non funzionano per cambiare il proprio orientamento sessuale, le cosiddette nefaste terapie riparative. E ce ne sono, e anche in Italia sono arrivate. Diciamo che non hanno assolutamente di diritto di cittadinanza nella comunità scientifica. Colgo l'occasione per ricordare una magnifica iniziativa dell'Ordine degli Psicologi, nata dall'Ordine degli Psicologi del Lazio, recepita dall'Ordine degli Psicologi Nazionale, che sono linee guida per l'ascolto e la consulenza con persone gay e lesbiche. Ma lo stigma dell'omofobia è appunto interiorizzabile e porta a non accettarsi, a sentirsi sbagliati e, ahimè, purtroppo a volerla fare finita pur di non vivere con quella che è considerata uno stigma e che è invece semplicemente uno dei modi di vivere. Di vivere l'amore, di vivere l'attrazione, la sessualità, quindi di viverla con gioia e basta. Diciamo questo ai ragazzi e ragazze, o più grandi o meno grandi. Vittorio Lingiardi, io la ringrazio molto. Grazie a voi per questa consultazione, a presto. Grazie, buona continuazione. Adesso invece vorrei parlare con Giancarlo Cancelleri, che saluto, grazie di essere qui a Effetto Note, Cancelleri. Buonasera a voi. Presidente del gruppo Movimento 5 Stelle dell'Assemblea regionale siciliana. Io so, Giancarlo Cancelleri, che voi domani come Movimento 5 Stelle volete votare la sfiducia al presidente della regione Crocetta. In questo anno, perché oggi è un anniversario particolare, proprio un anno esatto da quando ci sono state le elezioni lì in Sicilia per rinnovare l'Assemblea e anche per l'elezione diretta del presidente della regione, no? Che poi è stato Crocetta, non era una gran maggioranza, anzi è stata una coalizione di minoranza anche un po' confusa, perché è difficile bene capire. Crocetta è sostenuto da PD, UDC, ma anche Movimento 5 Stelle, a seconda degli argomenti, dei temi da votare. Com'è la questione, Cancelleri? No, Crocetta è sostenuto da PD e UDC e una serie di movimenti regionali, di che si sono creati nel frattempo. Il Movimento 5 Stelle non è mai stato organico alla maggioranza di governo. Però all'inizio, mi scusi cancelliere, all'inizio si diceva è un laboratorio interessante, è un esperimento che potrebbe essere poi esteso anche ad altre parti d'Italia, perché tanto che Bersani si era un po' innamorato anche di questa idea, no, di poter coinvolgere anche magari su singoli temi il Movimento 5 Stelle. A livello nazionale non è stato possibile, però lì a livello siciliano, regionale, sì, fino a un certo punto. Ma noi in realtà abbiamo detto a tutte le forze politiche che avremmo appoggiato le idee buone che arrivavano in Parlamento e che erano buone per i cittadini, e noi le avremmo sostenute, ma non era rivolta chiaramente alla parte governativa, ma era rivolta a tutte le forze politiche, anche quelle di opposizione. Ed è chiaro questo, che non siamo mai entrati in maggioranza, non abbiamo mai avuto l'intenzione di farlo. Ma in realtà questo tempo si è bruciato, è passato un anno e non c'è stato quello sperato sviluppo economico. Questo per il fatto che noi comunque abbiamo accettato l'esito delle urne, che è stato in qualche modo l'esito che ha dato la vittoria, seppur risicata, al presidente Crocetta, per cui abbiamo accettato che fosse lui a governare. Di fronte a questo immobilismo governativo ci sembrava giusto non essere più complici di quella che era una doppia scure, una della crisi e una di questo immobilismo regionale sui cittadini siciliani, per cui abbiamo chiesto una mozione di sfiducia. Pensa cancelleri, che passerà? Perché probabilmente l'UDC e il PD, anche se è in contrasto, è parecchio in tensione ultimamente Crocetta con il suo partito, il PD, PD che tenta di scaricarlo, lui che ha creato il megafono, che è un movimento tutto suo, insomma la situazione è abbastanza complicata. Lei pensa che potrebbe passare questa mozione di sfiducia domani? Ma io credo che questo atto parlamentare ha... in questo momento non gode di particolari favori. È anche certo che chi non voterà domani la sfiducia in qualche modo non avrà più il diritto di lamentarsi, ed è anche vero che in qualche modo il governatore Crocetta deve comunque rispondere a quelle che sono le progettazioni a medio e lungo termine per lo sviluppo della Sicilia. La Sicilia, nell'ultimo rapporto dello Svimez, è la regione in Italia che più sta soffrendo dal punto di vista economico. Abbiamo un PIL che è a meno 4,3% ed è la regione in Italia che sta peggio anche rispetto a quella del Mezzogiorno. Non siamo soltanto il sud dell'Italia, siamo diventati anche il sud dell'Europa, e chiaramente la nostra posizione anche storicamente dovrebbe essere invece quella di centro del Mediterraneo. Anche se mi sembra che i parlamentari continuino a prendere sugli 11.000 qualcosa al mese, no? Giusto lì non c'è stato un po' di taglio in Sicilia, o no? Ma la condizione economica dei deputati, o chiamiamoli parlamentari siciliani, è veramente grottesca, perché di fronte a tantissima gente che chiede sviluppo economico, la possibilità di lavoro e un futuro sereno, chiamiamolo in un modo solo, chiedono pane. Qui l'arroccarsi sui privilegi è stato veramente incredibile, la non possibilità di recepire per esempio il decreto Monti, ed è uno degli che tagliava gli stipendi. Sì, che tagliava gli stipendi, e in questo momento se ne sta parlando fortemente, ha avuto da parte del Movimento 5 Stelle un forte contrasto. Noi abbiamo portato la nostra proposta, che è praticamente quello, cioè la condizione economica che proponiamo a noi stessi, cioè di vivere un'attività parlamentare con poco più di 2.500 euro netti al mese più le spese rendicontate, quindi per un aggirarsi attorno di quei 4.000-4.500 come euro. Totale. Che, ecco, cancelleri, sì, ma mi dica una cosa, a livello invece nazionale, cosa ne pensa dell'esploa oggi di Grillo? Dell'attacco napolitano, del fatto di voler andare subito al voto? Ma io credo che questo governo nazionale abbia chiaramente detto più volte la parola fine su tantissimi progetti. Non mi sembra che stia rispondendo più alle necessità che ci sono sul territorio. La crisi corre talmente velocemente che la politica dovrebbe, perché è chiamata a quello, dare delle risposte in maniera altrettanto veloce, invece non ce la fa, perché viene impantanata da votazioni, da situazioni che riguardano la decadenza di qualche senatore piuttosto che di e movimenti interni. Ma secondo lei, cancelleri, Grillo quindi ha ragione nel dire andiamo subito al voto, nel volere l'impeachment per Napolitano, in una parola che stiamo chiudendo? Certo che ha ragione a dire che andiamo direttamente al voto. Lo sentite qualche volta giù in Sicilia? Grillo? Ma Grillo ogni tanto sì, lo sentiamo, ma lo chiamiamo semplicemente noi, insomma, per raccontargli un pochettino che cosa sta succedendo. Quello che sta succedendo. Insomma. Va bene, magari ci aggiorniamo su quello che succederà domani. Grazie Giancarlo Cancellieri, buon lavoro. Grazie a voi, buona serata. Grazie, buona serata. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi e continuiamo a parlare di politica. Abbiamo avuto poco fa Cancellieri a capo del Movimento 5 Stelle in Sicilia e adesso vorrei sentire sempre sull'argomento politica da una parte Grillo e dall'altra Renzi la professoressa Elisabetta Gualmini. Buonasera. Buonasera. Buonasera professoressa, presidente dell'Istituto Cattaneo, docente di scienze dell'amministrazione all'Università di Bologna, ma in una parola possiamo dire politologa. Fine analista della situazione politica italiana, conosce il movimento di Grillo in particolare, ha anche scritto un libro su Grillo. Che pensa dell'intervento di oggi al Senato di Grillo? Ma penso sia stato un intervento significativo perché Grillo è tornato sostanzialmente al mito delle origini, quindi al mito della rete, della possibilità di partecipazione da parte di tutti anche al processo legislativo. Quindi è un atto significativo, come a dire, forse la campagna elettorale per le europee è iniziata e quindi noi torniamo a rispolverare quelli che sono stati i nostri cavalli di battaglia, insomma. Quindi questa utopia che si possa tutti deliberare, tutti decidere insieme, non so poi come questo si potrà essere congruente, questa piattaforma elettronica, con il ritmo dei procedimenti parlamentari, quindi è tutta una scommessa che va scoperta passo dopo passo, però ecco, è stato un Grillo che è tornato su appunto a galvanizzare un po'. Sì, è un po' galvanizzato, devo dire che c'era un clima di grande entusiasmo, si sono anche allentate le tensioni interne, quindi è stato un richiamo identitario. Tra l'altro nel suo editoriale oggi sulla stampa, nel suo articolo, diceva che le larghe intese continuano a essere per Grillo una delle migliori garanzie per il suo successo, possibilmente anche alle europee che sono alle porte, no, a maggio. Sì. Perché dice le larghe intese? Ma io penso in realtà che queste due formule politiche sono appunto due sintomi della stessa sindrome, scriveva, cioè di un sistema politico al massimo storico della sua debolezza, ovvero da un lato abbiamo questa grande coalizione un po' all'italiana in cui stanno dentro tutti, che si basa appunto su logiche di negoziazione, di compromesso, che però sino ad ora non è riuscita probabilmente a mettere in piedi riforme ampie e strutturali, dall'altro lato quindi abbiamo una sorta di iperpolitica. Dall'altro lato abbiamo invece tutto quell'elettorato e quindi i rappresentanti di quell'elettorato a cui insomma le larghe intese non vanno giù, che non hanno votato per questa formula politica e che sono ancora stanchi dei partiti tradizionali perché li ritengono tutto sommato inconcludenti. Quindi sono un po' due facce della stessa medaglia, cioè di un sistema politico che ancora non riesce a riorganizzarsi e che ha partiti davvero ancora molto deboli. Insomma. Però finché ci saranno le larghe intese, Grillo avrà buon gioco nel dire guardate, ho ragione io, cioè tutti i partiti sono uguali, non c'è differenza tra destra e sinistra, addirittura governano insieme, si mettono d'accordo e fanno poco. Quindi più poi le larghe intese daranno l'impressione anche di essere poco efficaci, vedi ormai il teatrino della legge elettorale, più Grillo potrà chiaramente capitalizzare e guadagnare voti. Ha citato la legge elettorale, quindi mi viene in mente subito, passiamo dall'altra parte con Renzi che ha chiuso la Leopolda, il suo quarto convegno, e lui è uno di quelli che ha detto chiaramente che le larghe intese basta quando se dovesse andare lui, se dovesse diventare segretario del PD e possibilmente poi premier, chiusa l'esperienza delle larghe intese, no? Assolutamente, cioè penso che Renzi debba e in qualche modo sia espressione di un assetto bipolare, cioè debba ripristinare il bipolarismo anche perché a lui stesso non converrebbe competere in un assetto molto frammentato e proporzionale che di fatto ammazzerebbe la sua leadership, cioè la sua leadership si accompagna anche ad un sistema in cui ci sono due partiti alternativi che appunto competono tra di loro e ad un partito anche tramite il sistema elettorale assicurata la possibilità di governare, quindi assolutamente un'ipotesi sciaguratissima sarebbe quella di un ritorno al proporzionale, lui stesso lo ha detto, e si spera, io ci credo poco e devo dire la verità, che invece si attui una riforma elettorale che garantisca la governabilità, insomma. Lei ci crede poco. Ci credo poco, sì. Professoressa Gualmini, su questa sua dichiarazione sconsolante, io la ringrazio e la saluto, avremo modo, se lei avrà voglia, di ritrovarci e di analizzare, certo, la situazione grazie politica. A voi. Grazie, buona serata. Si chiude qua questa parte di Effetto Notte, poi sapete che giusto facciamo un richiamo tra poco per ricordarvi i titoli e i fatti principali. A tra poco.